Prima edizione, l'informazione del mattino. Eccoci qui pronti a cominciare, ancora buon lunedì da Anna Migliorati. Lo sapete quanto vale l'evasione fiscale in Italia? 120 miliardi all'anno. 120 miliardi. Nel 2011 di questi ne sono stati recuperati 12 miliardi. Sono davvero cifre impressionanti e a darle è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Lo ha fatto ieri sera nella trasmissione Che Tempo Che Fa. Nel nostro paese 71.000 persone dichiarano più di 200.000 euro l'anno. 796 dichiarano più di un milione. Un po' pochi, ha fatto notare Befera da Fabio Fazzi. E allora Zapping TV, sentiamo cosa ha detto ieri sera. Vede, io dico sempre, a me piace fumare il sigaro, sigaro italiano. È normale per me non fumare qui. Io non so se lei è giovane, ma quando andavamo al cinema tanti anni fa, il film si vedeva fino alla metà del primo tempo, sì, poi c'era talmente effetti speciali che lo schermo non si vedeva. Invece è naturale non fumare. Ecco, quando riusciremo a considerare naturale pagare le imposte, forse avremo vinto la battaglia e quei numeri saliranno. Ed eccola, questa la nuova battaglia. E attenzione, perché da venerdì sono pronte le liste nere del fisco. Con questo apre questa mattina la prima pagina del Sole 24 Ore. Allora una piccola pausa e poi leggiamo cosa scrive oggi il Sole 24 Ore. Prima edizione. Ed eccoci allora sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Perché? Perché se le cifre dell'evasione fiscale sono quelle che abbiamo detto poco fa, 120 miliardi all'anno, da venerdì però si è pronti a voltare pagina. Tutte le liste nere del fisco, così titola questa mattina il Sole 24 Ore, dalle ricevute ai conto correnti, sono 14 gli elenchi che schedano i potenziali evasori, perché si moltiplicano gli strumenti per combattere le irregolarità con l'incrocio delle banche dati. Questo perché è entrato in vigore venerdì l'ultimo di una lunga serie, cioè l'elenco dei furbetti dello scontrino. I commercianti che non emettono documenti potranno essere controllati perché ritenuti a rischio evasione fiscale. Un provvedimento importante, visto che il Sole 24 Ore quest'oggi riporta anche il bilancio dei blitz delle ultime settimane da Roma a Milano a Napoli a Courmayeur e poi via via tutti gli altri. Il bilancio totale dei blitz è che il 50% è fuori legge. Così, dedicata all'evasione fiscale, questa mattina l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì. Gli altri quotidiani in edicola, l'attenzione la puntano invece sulle elezioni russe. Abbiamo sentito poco fa in diretta da Mosca Antonella Scott. Questa mattina i dati sono definitivi, nella notte il quadro si è definitivamente chiarito, ma già ieri sera era sufficientemente chiaro per avere le aperture dei quotidiani questa mattina e numerosi commenti. Una carrellata, la Repubblica titola Putin vince, la Russia è ancora sua, terza volta al Cremlino con il 65% dei voti. Putin si riprende il Cremlino, appena eletto piange, l'opposizione accusa brogli, il Corriere della Sera, La Stampa, il trionfo annunciato di Putin, Il Messaggero, la Russia incorona Putin. Così i titoli di questa mattina, uno tra tutti dei commenti, i confini di uno zar sulla Repubblica, lo zar obbligato a non cambiare sulla Stampa, e comunque ne troverete diversi più o meno tutti sullo stesso tenore. Altra notizia di giornata, centro pagina invece della Repubblica, i Notav, da oggi si apre un'altra settimana di intense proteste, ne parleremo anche noi, e Palazzo Chigi però elabora un piano per la pace, piano che riporta questa mattina la Repubblica. Ecco il piano per la pace con i Notav, prevede tra l'altro sgravi fiscali per i comuni e posti di lavoro. Il Quirinale intanto smentisce, non ci sarà nessun incontro tra Napolitano e i sindaci anticantiere. Val di Susa, Italia, le opere richiederanno anni, Ilvo Diamanti, così sulla Repubblica. Altre notizie di giornata sulle prime pagine dei quotidiani, taglio centrale del Corriere della Sera dedicato alla notizia di cronaca di giornata, uccide per gelosia l'ex moglie e altre tre persone, una strage a Brescia davanti alle figlie piccole, la minacciava da mesi, davvero una brutta storia, la trovate un po' su tutti i quotidiani, è in grande evidenza a centro pagina del Corriere della Sera. Corriere della Sera che riporta un'altra notizia della notte, il testa a testa alle primarie del PD a Palermo, noi vi abbiamo raccontato come sono andati a finire, vale a dire è stata bocciata Rita Borsellino, candidata del segretario segretario del PD Bersani, per la vittoria invece di Ferrandelli. Ne parleremo più avanti a prima edizione, perché dopo Genova per Bersani in queste primarie è un'altra dura batosta. Altre notizie sempre dal Corriere della Sera, fondo pagina Don Verzé e i segreti del San Raffaele. Il Corriere della Sera oggi pubblica una lettera di Formigoni proprio a Don Verzé. Altro tema lo troviamo invece sul Messaggero, che mette in grande evidenza la vicenda di Rossella Urro, libertà più vicina ma non totale, Rossella ceduta da Al-Qaeda ai mediatori, scrive Massimo Martinelli, è libera da Al-Qaeda da 2 giorni ma non è ancora in mano sicura. Rossella Urro ha fatto solo un piccolo passo verso l'Italia. Grande attenzione del Messaggero. Mantiene desta l'attenzione sulla vicenda della cooperante italiana. Ancora invece centro pagina del Messaggero, dedicata alla notizia un po' politica di giornata che vi abbiamo raccontato anche noi, vale a dire sì al taglio dei parlamentari, l'intesa tra PD, PDL e Terzo Polo sulle riforme costituzionali che prevederanno anche più poteri per il Premier. Sul Messaggero trovate oggi un'intervista a Patroni Griffi che dice c'è poca trasparenza tra i dirigenti pubblici. Una curiosità la trovate a fondo pagina sulla Stampa, atleti e studenti, in Italia è quasi impossibile. Il caso di 2 nuotatrici che inseguono le Olimpiadi ma faticano in classe. E in un'intervista questa mattina alla Stampa parla intanto il ministro Profumo, che annuncia una novità dal 2013. Arriverà il liceo sportivo, sarà una sezione dello scientifico con più ore di educazione fisica per coniugare sport ed educazione sui banchi. Così l'intervista di Profumo questa mattina alla Stampa. Abbiamo volutamente tralasciato l'ultimo addio a Lucio Dalla, che trovate però questa mattina sulle prime pagine di tutti i quotidiani, per leggervi quanto scrive il Corriere della Sera, sempre in centro pagina. Folla ai funerali, polemica in TV sull'omosessualità taciuta. L'addio a Dalla e il tabù infranto. Un addio con 30.000 amici. Ha raccontato un po' su tutti i quotidiani di oggi, e allora ne vogliamo però parlare anche noi. Lasciamo per il momento le prime pagine dei giornali e torniamo alle nostre notizie di Radio 24. Lo facciamo andando a Bologna, che si risveglia questa mattina davvero ormai orfana di Lucio Dalla. Andiamo da Raffaella Calandra. Buongiorno Anna. Sì, dopo i funerali da oggi possiamo dire che Bologna si misura soprattutto con la consapevolezza di una grande assenza, l'assenza di un pezzo di città e di un punto di riferimento tanto forte quanto imprevedibile, come è stato per tutti qui Lucio Dalla. Il centro di Bologna, quello dove non si perde neanche un bambino, come cantava lui, era troppo piccolo ieri per ospitare tutti quelli che hanno fatto la fila, che hanno cantato, pianto e applaudito davanti alla bara del cantautore. In 50.000 hanno partecipato ai funerali davanti al maxischermo o dentro la Basilica di San Petronio, la chiesa simbolo di Bologna, dove non entrano le note delle canzoni riecheggiate per 2 giorni invece in tutte le strade, ma più volte invece vengono scanditi i versi di Dalla, gli stessi usati dalla gente per salutarlo. Ho scritto un pezzo della sua canzone Se io fossi un angelo, perché è una di quelle che mi piacciono di più e mi sembra adatta, perché ora lui è diventato quell'angelo. Quale verso hai scelto? Io gli direi amandolo, ma a modo mio, perché lui avrà il suo modo di parlare con noi, avrà il suo modo di parlare con lui. Per noi, certamente, insomma, per noi della sua età, sì, la musica ci ha accompagnato sempre, questo senz'altro. Poi bolognesi come noi. Sono molto speciale, sì. Sinceramente ha avuto una vita un po' complicata, insomma, e ha lasciato dei bei ricordi. Un grande. C'è qualche canzone in particolare che lei associa a, non so, una fase della vita che l'ha accompagnata in qualche momento particolare? Caro amico ti scrivo, è una canzone bellissima. Dottoria universitario, colonna sonora della nostra vita. Qual è la sua canzone preferita? Piazza Grande e 4 marzo 43, ovviamente sono quelli, però anche Nuvolari. Siamo venuti da Monza per dargli l'ultimo saluto. Qual è la sua canzone preferita? Attenti al lupo. C'è chi ha portato davanti casa sua la maglietta del Bologna, la squadra che l'ha ricordato prima della partita di ieri con un omaggio del capitano, e c'è chi, come l'amico barista, sta già raccogliendo firme per dedicargli una piazza. Io ho attraversato Piazza Maggiore, quella che per lui era Piazza Grande, in lungo e in largo. Ho camminato ieri sotto i portici e percorso via D'Azeglio la strada della sua abitazione, e tutto sembrava come il sacrario di una memoria collettiva. Le sue foto su ogni vetrina, i saluti su ogni muro, i fiori, i messaggi, le confidenze della gente affidate ad ogni pezzetto di carta. E in strada, per salutarlo, qualcuno ha voluto portare anche la sua vecchia Fiat 1100 nera con le iniziali sulla fiancata. Lucio Dalla era bolognese in tutto e, come il più classico dei bolognesi, aveva chiesto di fare l'ultimo giro sui colli della città ed è stato accontentato. Perché lui era così, ricordano gli amici, i cantanti che con lui hanno lavorato, ricorda la gente comune che lo incontrava. Lui era leggero come una rondine, evocata in chiesa dal suo pupillo Marco Alemanno e prima anche dal suo confessore padre Bernardo Boschi, che insieme a tutti gli altri dall'altare gli ha fatto pure gli auguri di compleanno. Ron ha parlato di leggerezza, bravo Ron, insostenibile leggerezza dell'essere, questo era Lucio. Caro Lucio, ti abbracciamo, saremo sempre con te perché sappiamo che tu sei in mezzo a noi. Proprio ieri, infatti, Dalla avrebbe compiuto 69 anni e ora la sua casa, il suo studio, dove è passata molta della musica italiana, mentre fa capolino un giallo sul testamento e sull'assegnazione delle sue ricchezze, c'è chi vorrebbe trasformare la sua casa appunto in un memoriale della musica, e forse anche questo è un modo di Bologna per non staccarsi del tutto dall'amico Lucio. Prima edizione. 6:35 minuti a prima edizione, le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchiesi ed Italia in diretta, 5 marzo 2012. Il 19 marzo 2002, quasi 10 anni fa, le Brigate Rosse uccidevano il professor Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare. Italia in controluce ha deciso di dedicare alla memoria di Biagi l'intera settimana di programmazione. Chi era Marco Biagi? Partiamo da qui. Cristina Carpinelli ha intervistato lo scrittore Giovanni Bianconi. Purtroppo il professor Biagi è diventato noto al grande pubblico solo dopo la sua morte. Era un po' come è successo con il professor D'Antona 3 anni prima e come era successo negli ultimissimi omicidi da parte delle Brigate Rosse, penso all'omicidio del senatore Ruffilli nel 1988, nel senso che era una di quelle persone che lavoravano vicino a personaggi importanti, a uomini di governo, ma sostanzialmente nell'ombra, o comunque nell'ombra per il grande pubblico, mentre invece erano molto noti tra gli addetti ai lavori. E le Brigate Rosse sono andate a cercare questi personaggi qui nella loro ultima fase, cioè personaggi che contribuivano dalle retrovie alle politiche dei vari governi. D'Antona per un governo di centrosinistra, Biagi per un governo di centrodestra, nonostante il suo passato di adesivo, diciamo così, alle tesi socialiste, alla militanza del Partito Socialista anche. Quindi da questo punto di vista gli italiani hanno scoperto Biagi soltanto dopo, e il suo ruolo soltanto dopo, tragicamente con quella morte, che aveva le sue ragioni proprio nel lavoro che Biagi stava facendo, cioè quello di composizione dei conflitti sociali, diciamo così. Le Brigate Rosse nel 1999 e poi nel 2002 non avevano nessuna velleità di conquistare il potere, diciamo, come eventualmente potevano avere all'inizio degli anni 70 in tutt'altro clima. Avevano però l'ambizione o comunque l'obiettivo di mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi, nel meccanismo della composizione dei conflitti sociali. E per fare questo hanno ucciso 2 persone, e una di queste è il professor Biagi, di cui tutti oggi conoscono. Tra l'altro, l'ultimo articolo che lui scrisse, uscito il giorno stesso del suo omicidio, sul Sole 24 Ore, parlava di temi di cui ci ritroviamo a parlare ancora oggi, insomma, il lavoro, il mercato del lavoro, la necessità di adeguarsi all'Europa. E quindi questo significa che batteva sui tasti giusti e, diciamo così, aveva individuato quali erano i problemi da risolvere che ancora oggi non sono risolti. Era Italia in controluce, prima edizione. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24 con la ricostruzione precisa e dettagliata dell'omicidio di Marco Biagi la sera del 19 marzo di 10 anni fa, avvenuto appunto a Bologna in via Valdonica. Ci saranno molti ospiti e materiale d'archivio. Grazie Daniele Biacchesi, ti aspettiamo allora oggi alle 13.30, nel frattempo siamo alla seconda parte di prima edizione, ancora buon lunedì da Anna Migliorati, 6.38 minuti 30 secondi, ve l'abbiamo raccontato prima con la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei giornali si aprono con le elezioni in Russia e la vittoria di Putin, ma ieri c'è stata anche un'altra consultazione in Italia, a Palermo, le primarie del PD, conta dei voti davvero fino all'ultimo nella notte. E alla fine ne è uscita l'ennesima batosta per il PD di Bersani, ma tutto quello che è successo ce lo racconta Laura Bettini. Buongiorno, sì, effettivamente dopo Milano e Genova è arrivato un po' un altro schiaffo alla direzione del PD, perché anche se di un numero ridotto di voti, pare meno di 200, anche se si è in attesa di un comunicato ufficiale e definitivo dopo il riconteggio dei voti, ebbene Fabrizio Ferrandelli, 31 anni, ex Italia dei Valori, appoggiato da un cartello di una trentina di movimenti e da una sola parte del PD, ha superato Rita Borsellino, sostenuta dal PD, che fa riferimento invece al leader Pierluigi Bersani, poi a Selle, Italia dei Valori, FDS, Verdi, per entrambi oltre 9.000 preferenze, ma appunto ha prevalso Ferrandelli. Più distanziati invece gli altri candidati sindaci, aspiranti candidati sindaci, Davide Faraone con 7.900 voti e Antonella Monastra 1.750 voti a quanto sembra. Ed ecco il momento della comunicazione della vittoria nel quartier generale di Ferrandelli e poi le prime parole del neocandidato sindaco. Sentiamo. 220. Grande. Questa vittoria è la dedica a tutti i palermitani che ci hanno creduto fin da subito, che hanno sfidato le segreterie romane, che hanno resistito l'insurrezione e ai quartieri popolari, a quei quartieri popolari che ci hanno consentito di averlo impedito. Che hanno sfidato le segreterie romane, così ha detto. Un messaggio chiaro. Un messaggio molto chiaro, anche se poi dopo modererà un pochino i toni nelle dichiarazioni successive, cercando appunto di, sapendo anche della necessità di riconciliare tutte le anime, ma comunque così ha detto a caldo. L'affluenza è stata da record, nei 31 gazebo allestiti in città hanno votato quasi 30.000 persone, si precisa anche oltre 800 immigrati e un centinaio di under 18, 10.000 in più rispetto alle primarie di 5 anni fa. Il coordinatore dell'esecutivo regionale del PD, Enzo Napoli, ha detto che nonostante l'afflusso considerevole le primarie si sono svolte regolarmente e se ci sono stati alcuni episodi dubbi sono assolutamente irrilevanti, anche se ci sono stati momenti di tensione. Ad esempio nel quartiere Zen è dovuta intervenire la Digos, è stata segnalata una donna che avrebbe invitato la gente a recarsi al seggio dando un euro, che poi è la cifra necessaria per poter esprimere il voto in questo tipo di consultazioni. Queste le notizie che arrivano da Palermo al momento. Grazie, naturalmente a mezzogiorno dovrebbe incontrare anche la stampa e continueremo a raccontarvelo nella giornata, vedremo che succederà e quali saranno anche i risvolti. È perché a Roma mancano del tutto le dichiarazioni del PD appunto centrale, ma anche degli altri candidati. Certo, anche perché sono veramente arrivate nella notte, sono le primissime informazioni che possiamo darvi alle 6.42 minuti, vedremo come si sveglierà la politica romana con questa notizia questa mattina. Grazie nel frattempo a Laura Bettini. E voltiamo ancora una volta pagina, perché oggi si attendono dichiarazioni importanti e ancora importanti decisioni anche sul fronte della protesta dei Notav. Sul traliccio da cui è caduto Luca Bà è salito ieri un altro rappresentante storico del movimento, Turi Vaccari, con sé a due coperte un po' di frutta. Sul terreno i vigili del fuoco hanno disteso dei materassini per attutire l'impatto in caso di caduta, ma da oggi i manifestanti hanno programmato un'assemblea al giorno a Bussoleno, mentre a Torino è in programma oggi un incontro tra esponenti del della politica e delle istituzioni per fare il punto sulla situazione. Tant'è in Italia, ma un dato è certo, la TAV ormai ce la chiede l'Europa. Io saluto il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, commissario all'industria e all'imprenditorialità. Grazie per essere con noi questa mattina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa è la situazione oggi, dicevamo, torneranno a parlarne istituzioni ed esponenti della politica per cercare una via d'uscita. Palazzo Chigi un piano per la pace lo sta programmando, si parla di sgravi fiscali per i comuni e posti di lavoro per cercare un po' di riportare la pace, però come dicevo è soprattutto l'Europa a chiederci l'alta velocità, quindi non c'è via d'uscita, bisognerà farla? Io sono convinto che si debba fare, perché c'è una rete transeuropea che permetterà all'Europa di essere più competitiva, di poter sviluppare il proprio mercato interno, di poter sviluppare la propria economia. Mi pare che il governo stia facendo bene, è dissennato l'atteggiamento di chi con la violenza pensa di poter fermare il progresso. Il progetto presentato e rivisto non arrecherà danni all'ambiente. Mi pare che il lavoro dell'architetto Virano sia un lavoro eccellente, si sono consultate tutte le comunità locali, anche il lavoro aggiuntivo che sta facendo il governo mi sembra assolutamente positivo. Ecco perché c'è da dire, perché mentre all'inizio di questa protesta si contestava anche il progetto e dove sarebbe passata questa alta velocità, questa fase è superata, c'è un progetto che, come diceva lei, rispetta l'ambiente ed è stato rivisto. Quindi lei è d'accordo con Virano che parla di proteste con violenti non invitati più che infiltrati e movimenti così politici ai limiti della democrazia in questa protesta? C'è assolutamente chi vuole sfruttare questa vicenda per creare disordine, per organizzare violenze contro le forze dell'ordine, quindi andare al di là della protesta ambientalista, ma organizzare un movimento estremista violento sfruttando anche i problemi che ha la politica, il malcontento che c'è in alcuni settori della società. Questo si è manifestato anche col voto di ieri nel Partito Democratico a Palermo, ci sono stati altri fenomeni, anche nel PDL. Questo significa che c'è chi cerca di soffiare sul fuoco e di utilizzare un malcontento che c'è per altri obiettivi. Questo mi sembra assolutamente incredibile. Noi abbiamo bisogno certamente di fare delle cose in Italia, di avvicinare di nuovo i cittadini alla politica, lavorare intensamente, però nulla giustifica manifestazioni violente che sono poi frutto di una strategia, cioè le violenze non sono occasionali, sono violenze premeditate. Prima edizione. E allora io approfitto della presenza con noi del vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani per dare anche qualche cifra, Tajani, su quello che è l'alta velocità. Dicevamo, l'alta velocità ce la chiede l'Europa e perché è inserita in un progetto che è molto più ampio di noi. Allora, il Libro Bianco dell'Unione Europea prevede di triplicare a 21.000 chilometri il network continentale entro il 2030. L'obiettivo europeo è quello di far viaggiare in treno sulle distanze medie, cioè si valuta 2 o 3 ore, più del 50% dei passeggeri e spostare su rotaia almeno il 30% delle merci che devono percorrere più di 300 chilometri. L'Europa, per darvi qualche cifra, ha investito 150 miliardi, ne ha in cantiere progetti per altri 110, la Cina ne ha investiti 117 solo nel 2011, in un quadro in cui in Europa l'aereo per queste percorrenze sta diventando il secondo mezzo e non più il primo, tant'è che l'Eurostar, che collega Londra e Parigi in poco più di 2 ore, ha conquistato il 75% del traffico tra Tamigi e Senna, e così è anche in Spagna sulla Madrid-Barcellona. Insomma, rischiamo davvero di perdere il treno europeo, Tajani? Ma assolutamente sì, perché oltretutto Il trasporto su rotaia è molto meno inquinante del trasporto su gomma, quindi è una sorta di controsenso quello che stanno sostenendo alcuni fondamentalisti impegnati in e forse non ci saremmo bloccati per lo sciopero dei TIR. Ma assolutamente sì, l'Italia è sbilanciata nel sistema dei trasporti, troppo trasporto su gomma, poco trasporto su ferro e poco trasporto su mare, e quindi necessita un cambiamento. Anche nelle prossime prospettive finanziarie l'Unione Europea prevede di investire circa 50 miliardi nel progetto Connecting Europe, cioè nelle reti transeuropee, e di cui 10 saranno di project bond, quindi anche una parte innovativa che dovrebbe contribuire a sviluppare un'azione anticrisi contro il credit crunch. Insomma, mi sembra una scelta veramente con la testa rivolta al passato, quella che si sta facendo da parte di alcuni elementi che rappresentano tra l'altro la minoranza assoluta in Italia, ma rappresentano anche la minoranza in Piemonte. Legittimo, per carità, dissentire, ma dissentire non significa aggredire i poliziotti, offendere i carabinieri che sono lavoratori e che sono impegnati a garantire la convivenza civile, come abbiamo visto qualche giorno fa in televisione. Certo, c'è chi vuole sfruttare questo momento per raggiungere altri obiettivi che non sono certamente quelli della tutela dell'ambiente. Ripeto, noi inquiniamo moltissimo, il settore dei trasporti è uno dei settori che inquina di più in Europa a causa delle emissioni di CO2, soprattutto di auto, camion, e se vogliamo inquinare di meno dobbiamo realizzare più ferrovie. E più alta velocità, perché il futuro passa da lì. Assolutamente sì. Grazie per essere davvero stato con noi, il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, commissario all'industria e all'imprenditorialità. Grazie, buona giornata. E come dicevo, della questione se ne parlerà ancora molto in giornata. Intanto un piccolo assaggio come sempre con Prima Edizione, tra poco ci risentiamo con GR24. Grazie come sempre Viola Bottoni e Peter Bescapè. A tra pochissimo, buon lunedì da Anna Migliorati.